get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao, siamo Laura e Lucilla e voi siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, all'interno del martedì femminista autogestito. Il pezzo che stasera vogliamo presentarvi lo potremmo intitolare Bulle femmine. Durante il nostro ultimo incontro, sto parlando del gruppo redazionale del coordinamento lesbiche, ci siamo rilette insieme un articolo di John Nessol, pubblicato molti anni fa e precisamente nel 1985 sulla rivista DVF, ormai nota come DVF Nero. Questo articolo si intitola Relazioni lesbiche, coraggio sessuale degli anni 50 o La bulla e la femmina. La Nessol racconta della propria esperienza in quegli anni, quando le lesbiche si riconoscevano attraverso un certo tipo di abbigliamento e un certo tipo di comportamento, o per dirla con lei, i rapporti bulla-femmina erano complesse affermazioni erotiche, non false copie eterosessuali. Prendevano corpo attraverso un linguaggio profondamente lesbico: posizione, abito, gesto, affettuosità, coraggio, autonomia. La Nessol, oltre a difendere quel periodo storico ed il profondo significato di rottura che esso rappresentò rispetto ai modelli culturali di allora, ripercorre gli anni relativi all'avvento del femminismo ed il giudizio, o pregiudizio direi io, che il pensiero femminista formulò a proposito del lesbismo degli anni 50. Per chi avesse voglia di leggere questo articolo, siamo disponibili a fornire copie o indicazioni su dove reperirlo. Tra noi, la conversazione si è fatta in quella situazione intensa e interessante, coinvolgendo vari aspetti: il pensiero, il pregiudizio, il vissuto. Abbiamo espresso tra noi posizioni molto diverse, direi contrapposte, e intendiamo approfondire questo dibattito. Ma quante pensano ancora che le bucce siano le brutte copie dei maschi? Vorrei di seguito leggere alcuni spunti di riflessione proposti da Morin sulla bollettina del CLI numero 126 del gennaio 1996 e selezionati nel quarto capitolo di Dykes, Loving Dykes, di autrici varie degli USA. Per la maggior parte delle lesbiche, il solo fatto di sentir pronunciare le parole butch e femme dà fastidio, perché sembra che confermino i falsi stereotipi dei maschi. Il fatto che noi abbiamo dei ruoli è uno dei luoghi comuni più diffusi. Questi ruoli appartengono ormai al nostro squallido e perverso passato, dal quale ci ha salvato il femminismo. Ma se affrontiamo la questione dei ruoli, non vuol dire che è colpa nostra che esistono. Li stiamo semplicemente descrivendo per poter combattere l'ingiustizia. Non vogliamo che le lesbiche si vergognino, che si sentano in colpa, impaurite, imbarazzate, né vogliamo offenderle. Stiamo scrivendo per liberare le lesbiche da tutto ciò. Non vogliamo assecondare le menzogne maschili ed etero sul lesbismo. Vogliamo fare chiarezza in una situazione che suscita dolore e genera oppressione per le lesbiche butch, e per fare questo corriamo dei grossi rischi. Tutte le lesbiche che noi conosciamo, femme butch, che hanno avuto il coraggio di sollevare la questione dell'oppressione butch e del privilegio femme, sono state aggredite personalmente e attraverso la stampa, sono state derise e sono state oggetto di diffamazione, ostracismo e scherno. Le donne che si sono comportate in modo più offensivo sono state le femme, perché questo problema minaccia il loro potere sulle butch. Generalmente, chi teme di perdere i propri privilegi si arrabbia, ma le femme che negano l'esistenza dei ruoli stanno infatti dicendo che le butch non esistono. La maggior parte delle lesbiche nega che esiste l'oppressione delle butch nella stessa misura in cui la maggior parte delle donne eterosessuali nega che le lesbiche siano oppresse, ma anche alcune butch negano l'esistenza. la Butch come capro espiatorio. È grazie alle Butch che il lesbismo è stato visibile ed è sopravvissuto nei secoli. Esse dovrebbero ispirarci tutte. Una Butch che è sempre ovunque dichiarata è molto coraggiosa, a differenza delle donne che sono appartenute palesemente ai padri e ai mariti. È la prima ad essere aggredita, perseguitata, imprigionata o uccisa. L'oppressione della Butch è paradigmatica per il trattamento riservato a tutte le lesbiche dal mondo eterosessuale. Per i maschi e per le donne eterosessuali, lesbica e Butch significa spesso la stessa cosa. Le lesbiche fanno da capro espiatorio per i crimini perpetrati dai maschi. Vengono rappresentate come molestatrici di ragazzine, mentre gli stupratori sono i maschi e noi lesbiche siamo state spesso vittime di violenza da parte di parenti ed estranei. I maschi sono sempre riusciti a far spostare l'attenzione dalla propria violenza, insegnando alle donne ad indirizzare la loro rabbia e paura verso le lesbiche. Una Butch ha il diritto di dichiararsi Butch, ma se lo fa, provoca reazioni simili a quelle di una etero quando si dichiara lesbica. Un'analisi lesbica dell'oppressione delle Butch deve basarsi su ciò che sappiamo dell'eterosessismo e dell'odio per le lesbiche. Chi è per prima che ha accusato le lesbiche, soprattutto le Butch, di essere come maschi? Chi è che per prima ha accusato le lesbiche di imitare le coppie etero? Chi guadagna di più a distruggere la nostra autostima e a farci sembrare repellenti a noi stesse e alle altre? Chi guadagna di più a scoraggiare le ragazzine ad opporsi alla femminilità e all'eterosessualità? Chi è che usa le Butch come capro espiatorio? Noi conosciamo le menzogne dei maschi e sappiamo anche che riusciamo a districarci da questa rete di menzogne che mira a distruggere il centro della nostra identità ed il cuore dei nostri rapporti. Le Butch non sono come i maschi, le coppie lesbiche non sono come le coppie etero. Se analizziamo i ruoli tra le lesbiche, questo significa che dobbiamo analizzare il privilegio femme, l'oppressione Butch e la gerarchia eterosessista che esiste tra noi. Invece di dare per scontato che mentre le Butch sono ruolizzate, le femme sono semplicemente se stesse, dobbiamo riconoscere che sono le femme che hanno accettato gli artifici di un ruolo, mentre le Butch ne hanno resistito. Le donne etero si considerano come paradigma della realtà femminile. Allo stesso modo, la femminilità per le femme dovrebbe essere la pietra di paragone per tutte le lesbiche. Ciò significa che molte femme, forse la maggior parte, non si considerano neanche come femme, si considerano come donne. Così come le donne etero non si considerano come donne etero, ma semplicemente come donne. Siamo noi che dobbiamo dire che le donne etero non ci rappresentano tutte. L'oppressione delle Butch non viene considerata come una seria questione politica. Anche lesbiche che per altri versi sono radicali fanno battute sulle Butch e ci denigrano come non farebbero mai con altri gruppi oppressi. Per reperire questo numero della bollettina è sufficiente telefonare al collegamento lesbiche italiane presso il centro femminista separatista il martedì dopo le ore 19 al numero di telefono 06 6864 201. Avete ascoltato Don't Do It, delle mitiche Sapphire, dal loro Cleaning House. Le prime frammentarie testimonianze sugli stupri nel Kosovo risalgono al mese di aprile, quando i profughi cominciarono ad affluire verso l'Albania e la Macedonia. Poi non se ne seppe più nulla, né le organizzazioni umanitarie, i soldati della forza multinazionale di pace, i giornalisti, nessuno. Anche perché le prime a tacere erano le vittime stesse di questi abusi. Una psicologa francese, Dominique Serrano-Fitaman, incaricata dal Fondo delle Nazioni Unite di valutare l'ampiezza e le conseguenze psicologiche degli stupri nel conflitto dei Balcani, nel suo rapporto parla di home sex. Così i serbi chiamavano i luoghi di tortura dove venivano compiuti questi stupri collettivi. A Pristina ne ha individuati 5, dove una volta a settimana i miliziani portavano dalle 30 alle 50 donne. Quasi tutte uscivano morte. È successo anche in Ruanda, ma in una società islamica e patriarcale come quella kosovara, lo stupro è diventato un'arma per annientare le donne, per cercare di spezzare la loro identità, per fare in modo che venissero rifiutate dalle famiglie e dalla comunità. Quante sono le donne violentate? Le associazioni locali e internazionali che lavorano sul problema parlano di 20.000 casi di stupro e dalle violenze compiute tra marzo e giugno dovrebbero nascere 1.000 o forse più bambini. Nel Kosovo le ragazze sono state violentate anche per l'odio atavico, interetnico, tra due culture. Alcune donne venivano lasciate in vita proprio per testimoniare il loro calvario e per convincere le loro compagne a non mettere mai più piede in Kosovo. I serbi sceglievano principalmente ragazze giovani che stupravano al momento della distruzione della loro casa davanti a tutta la famiglia o anche durante la marcia verso le frontiere, in mezzo alla strada, su un camion. Le più sfortunate venivano condotte nelle home sex e la maggior parte di queste donne sono state uccise dopo aver ripetutamente subito violenze sessuali da parte di decine di soldati. Le conseguenze più immediate? In Kosovo saranno i problemi ginecologici, i traumi fisici, ma quelli a medio e lungo termine saranno ben più gravi e potranno condurre anche al suicidio o alla morte. Il Kosovo, il Ruanda, la Bosnia. Sappiamo che dovranno cadere ancora tanti silenzi che testimoniano l'imbarazzo più o meno colpevole dell'Europa. Sappiamo, o forse non sapremo mai fino in fondo, quante atrocità hanno avuto per vittime le donne e che le atrocità sono state compiute non solo da una delle parti della guerra. Lo stupro è sempre drammatico e questi ultimi 20 anni di riflessione politica e culturale delle donne ci hanno insegnato a comprendere fino in fondo la gravità di questo delitto che offende le donne in pace e le donne in guerra. Quello che però, secondo me, ha reso tragicamente inedito questo stupro è il fatto che non costituisce, tra virgolette, il riposo del guerriero tra un'operazione bellica ed un'altra. Invece è stato pensato ed usato come arma da guerra in una lucida, precisa strategia militare, praticata per la prima volta nella storia dell'umanità in questo conflitto da truppe regolari ed irregolari. L'aggettivo etnico dà la finalità dell'arma, l'annientamento di un'intera etnia. In questa strategia si intrecciano elementi delittuosi, l'uso della donna come terreno di battaglia e strumento di umiliazione del nemico. Donna quindi espropriata dalla sua soggettività, vero e proprio linguaggio tra uomini in guerra. I corpi delle donne, decine di migliaia, usati come territori di occupazione. Il brano che avete appena ascoltato è Respect di Aretha Franklin. E adesso vi parliamo della situazione del Buon Pastore. A che punto sta la ristrutturazione? Appunto, a che punto sta la ristrutturazione dell'ex palazzo del Buon Pastore che dovrà diventare Casa Internazionale della Donna? Pare che a febbraio del 2000 verrà intanto consegnata la parte ottocentesca, quindi i lavori dovrebbero essere a buon punto. Ma per quel che riguarda la parte politica, il Consiglio Comunale ha recepito la delibera numero 1617 relativa all'approvazione della relazione presentata dalla Commissione incaricata della progettazione culturale e della verifica di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa Internazionale della Donna presso il complesso del Buon Pastore. All'interno della suddetta delibera sono contenuti il progetto culturale, le finalità della Casa Internazionale della Donna, i criteri d'accesso, l'uso degli spazi e via discorrendo. Viene individuato l'assetto gestionale con la costituzione di un consorzio, tutte cose di cui vi abbiamo già parlato in precedenti trasmissioni. Nulla si sa d'altro. Siamo in attesa di un confronto con la parte pubblica circa l'eventuale canone d'affitto. Mancano riferimenti al protocollo d'intesa tra AFI, CFS e Comune per quel che concerne la parte politica. Insomma, Come al solito ci sono notevoli ritardi e poche notizie rassicuranti. Il clima politico che si respira da alcuni anni è decisamente spostato verso gli interessi dei potentati e Rutelli, il sindaco della città eterna, è ormai proiettato verso l'Europa, garante degli interessi di chi rappresenta migliaia di voti. Noi del CLR abbiamo lavorato insieme alle donne del CLI affinché nella bozza di protocollo d'intesa relativa alla parte politica fosse presente la complessità delle realtà del luogo, prima di tutto il lesbismo, che nella proposta iniziale non era stato neanche menzionato. Ma che fatica! La musica di sottofondo che ascoltate in questa trasmissione è Artemisia di Rachel Zed dal CD Room of One's Own, mentre il brano di musica lesbica che vi proponiamo è Fugitive delle Indigo Girls, tratto dalla raccolta Sumpf Ophelia. My soul and drinks of my wine, and I'd give my last breath to keep us alive. Are they coming for us? Cameras or guns? We don't know which, but we gotta run. And you say this is not what I bargained for. We swore to ourselves we'd go to the end of the world, but I got caught up in the whirl, twirl of it all. A day in the sun, dancing alone, baby, I'm so sorry. Now it's coming to you. They're one and the same. It's all such a treacherous game. Hide yourself from me. I said hide yourself from me. From me. Kissing the damned, I said remember this. How it should be. We are. without clothes. I danced in the sand. I was aching with freedom, kissing the damned. I said, remember this, this is how it should be. Vi ricordiamo che la redazione del Coordinamento Lesbiche Romane si riunisce ogni giovedì alle 20.30 presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B e che potete dunque telefonarci a questo numero di telefono, cioè lo 06 6864 201, per contattarci, darci spunti oppure inviarci fax perché il numero è lo stesso. E se volete chiamare in altri giorni potete lasciare messaggi perché c'è attiva una segreteria telefonica. Insomma, noi vi aspettiamo e ancora potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica che è questo, clrbp@hotmail.com, oppure chiamarci direttamente in radio, quindi il martedì, allo 06 49 17 50. Volevo proporvi una storia di vita raccolta con estrema lucidità da due giornaliste, Emanuela Moroli e Roberta Sibuna, dell'Associazione Differenza Donna, in un volume dal titolo Schiave d'Occidente, sulle rotte dei mercanti di donne, che costituisce una testimonianza significativa su un fenomeno largamente sconosciuto, non solo alla comunità scientifica, ma anche ad un pubblico più ampio. Sto parlando del traffico internazionale di donne destinati ai mercati della prostituzione dei principali paesi occidentali, che rappresenta un'attività criminale in costante espansione che coinvolge ampie aree dell'Europa centrale ed orientale. Secondo una stima effettuata dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 500.000 donne provenienti da questi paesi si trovano attualmente coinvolte nei mercati del sesso dell'Europa occidentale. Verso cui si svolge questo traffico e le strategie utilizzate da coloro che gestiscono il mercato della prostituzione internazionale evocano un mondo primitivo di difficile decifrazione. Le condizioni di asservimento, di sopraffazione e di totale annullamento dell'identità individuale a cui queste donne sono sottoposte ci rimandano ad un universo sociale atomizzato, dove le regole fondamentali della convivenza, basate sul rispetto della dignità umana e dei diritti imprescindibili della persona, sono continuamente negate. È un mondo barbaro abitato dalla logica dello sfruttamento totale e della sopraffazione, che costituisce lo scenario entro cui si svolgono i racconti di queste donne schiave. Donne senza volto e senza passato, condannate all'orrore quotidiano di una vita in cui la morte rappresenta talvolta l'unica via di scampo. Come gli schiavi durante i secoli passati, le protagoniste di queste storie sono gli oggetti del dominio di padroni spietati, sottoposti al potere illimitato di uomini che usano i loro corpi al pari degli altri oggetti di cui sono in possesso. Ciò che emerge è la presenza di organizzazioni criminali, talvolta ben strutturate, in grado di gestire direttamente tutte le fasi del traffico e specializzate nella trasformazione di queste donne in merci. I canali del traffico e dello smistamento attraversano gli stessi luoghi che risultano essere al centro delle principali rotte dell'immigrazione clandestina, i paesi balcanici e buona parte dell'Europa centrale. Qui gruppi di albanesi, ucraini, cechi, russi e turchi gestiscono lo smistamento delle donne ed organizzano il viaggio verso la meta prescelta. Il viaggio comporta spesso vari passaggi di mano della cosiddetta merce. Il suo prezzo si presenta puntuale all'arrivo nelle periferie urbane dell'Occidente. Qui lo sfruttamento delle donne viene effettuato in modo sistematico e perverso, attraverso pratiche persecutorie che non disdegnano ricorso alla tortura fisica e mentale. E la tortura, una delle pratiche più efficienti del potere, è sempre stata connessa con la storia sociale delle classi inferiori, dei diversi, dei superflui, degli schiavi. La pratica dell'orrore e il suo esercizio quotidiano riescono, come appunto sottolineano le due giornaliste, alla fine ad avere ragione di ogni resistenza, piegando i corpi all'obbedienza e dissolvendo le volontà. Queste moderne schiave spesso accettano la sopraffazione e solo in rari casi trovano la forza necessaria per mettere in alto la ribellione e spezzare l'asservimento. Ma il successo dei tentativi di fuga e delle possibilità di riscatto nei confronti di un destino negativo dipendono largamente da ciò che esse trovano in quel mondo sconosciuto costituito dalla società ospite. Senza una strategia di azione tesa a colpire duramente chi tesse le trame di questo ampio mercato criminale, le varie Rukia, Monica, Mirka, Galina saranno condannate all'impotenza e alla disperazione. Località segreta. Dicembre 1998. Forse i clienti trattano male qualche puttana, ma gli uomini come boss sono peggio. Vogliono comandare, vogliono che fai come dicono loro. Devi rispondere sempre sì, sempre sì. Mai una parola sbagliata, altrimenti la paghi sulla tua schiena. Ti ammazzano. Si vantano di saper ammazzare, di averlo fatto tante volte. Ogni tanto di notte uscivano per fare un lavoretto. Non importa se fanno sesso con te oppure no. Se lo fanno è solo per offendere. E rovinano tante vite. Qualcuno li deve fermare. Da noi. In Albania non c'è stato, non c'è legge. Con 10.000 lire un poliziotto chiude la bocca e chiude gli occhi. Non vede e non parla. Polizia e giudici sono quasi tutti comprati. C'è una miseria. Vai ad acquistare il pane e trovi una fila. Se arrivi va bene, altrimenti torna a casa perché compra chi è più forte. Hai anche paura di rispondere a qualcuno perché potrebbe ucciderti. Da noi galera non c'è. Entrano ad oggi e escono domani. Sarebbe bello se ci fosse una regola. Chi sbaglia deve avere a che fare con la legge. Sono molto ignoranti i nostri poliziotti. Hanno la quarta o al massimo la quinta elementare. Tanti vengono dalle campagne o dalle montagne e sanno solo di pecore, di mucche, di maiali. Da noi maschi e femmine sono trattati diversamente. Si deve rispondere sempre bene ai fratelli. Il marito può tradire la moglie, ma la moglie no, perché lui l'ammazza. Mi sono sposata con Albert a 15 anni e avevo i capelli lunghi fino al sedere. Ero carina, fresca fresca, e mi piaceva il rossetto, da morire. Gli chiedevo, posso metterlo? E lui, no, solo a casa per me, tu sei per me. E se esci, lega i capelli con una sciarpa. Quando torno io dal lavoro, li voglio sciolti. La prima volta che mi sono venute le mestruazioni, ero già sposata. Mia mamma non mi aveva detto niente. Io credevo ancora che i bambini nascessero da sotto le ascelle. Sono corsa allarmata da lei. Cose di donne, mi ha risposto. Il giorno del matrimonio era un giovedì di settembre. Ho tremato tutta la notte. Avevo una tale paura. Chissà che cosa poteva succedere. Mio marito non mi ha toccato, poverino. Era spaventato anche lui. Giovedì, venerdì, sabato. Mia suocera veniva tutte le mattine a guardare le lenzuola. Ecco, sei una carne morta, carne morta. Da noi significa che non sei più vergine. Ma che cosa vuole tua mamma? Chiedevo ad Albert. Lui lo sapeva che io ero a posto. Lasciala stare, dai, è vecchia. Ma lei mi trattava male, come un cane. Mi dava poco da mangiare. Non potevo stare a tavola con loro. La domenica mattina c'era sangue sulle lenzuola. Mi sono affrettata a toglierle per lavarle. Cosa fai? Mi ha fermato Albert. Le pulisco, che ho vergogna. Lui rideva. Ma se lei viene qui da 3 giorni proprio per questo, lascia stare là. Ho risentito i miei genitori 2 giorni dopo la denuncia. Ho detto solo bugie. Per me è una macchina immensa quello che è successo. Una macchia immensa quello che è successo. Non potevo dire a mio padre che ho lavorato sulla strada. Non è colpa mia. Ma non mi avrebbe capito, non avrebbe perdonato. Ho chiamato una vicina di casa che ha il telefono. Sono Elena, avvisa il mio papà. Dall'emozione lui non riusciva a respirare. Dov'è Marco? È vivo? Pensavo che foste morti, tutti e due. Nonostante non gli avessi chiesto di mentire, anche Marco ha mantenuto il segreto, finora. Solo mia sorella sa quello che è accaduto, perché qualcuno, per offenderla, le ha detto: si diverte a fare la prostituta in Italia. I miei mi hanno raccontato che la mia amica Gini, quella della festa, senza scrupoli, si è recata da loro. Elena è in Italia, con le suore, e sta bene. Anche il bambino è con lei, è fortunata, ha avuto tutto. Tutto. Mio padre non riusciva a sfamare tante bocche, allora ogni tanto andava nella mia miniera e implorava i padroni di aiutarlo. Quando riceveva qualcosa per gratitudine, per la gioia della buona notizia che Gini gli aveva dato, la ricompensava con una parte dei pochi soldi ricevuti. E lei li prendeva. La prima volta che ho visto la dottoressa Benvenuto, me la ricordo come fosse adesso. «C'è una telecamera?» le ho chiesto. «No, stai tranquilla». Avevo visto alla televisione che si usa fare così e avevo paura che la mia immagine potesse arrivare a mio padre. Davanti a me c'era una donna bravissima, molto forte. Mi piace perché sa dov'è la giustizia. Durante un interrogatorio alla presenza dell'avvocato difensore, quest'ultimo mi ripeteva certe domande mille e mille volte. Ma quanto prendeva? Quanti soldi prendeva? Rispondevo sempre finché sono esplosa. Gliel'ho detto, basta, è un'offesa, mi vergogno. Ma lui ricominciava impassibile. Mi sono rivolta all'interprete albanese. Vuole capire sì o no, io non rispondo più, mi faceva rabbia. Sei dalla parte loro, devi difenderli, non fare domande stupide, non giocare con le mie ferite. Lo sai, avvocato, cosa mangia una prostituta che guadagna 800.000 lire a notte? Pane, yogurt e qualche scatoletta di pesce, nient'altro. Io la pizza l'ho conosciuta dopo la denuncia, quando sono andata con Marco a vivere in una comunità protetta. La dottoressa Benvenuta è insorta. Avvocato, svolga l'interrogatorio come si deve. Ha capito. È rivolta a me, ci sono io qua. Mi sono sentita come se fosse mia mamma, mio papà, i miei fratelli, tutti dentro di lei. Non è stata la paura del processo, ma l'angoscia, l'agitazione che mi hanno fatto dire alla dottoressa Benvenuto «Non vengo, non voglio ricordare, non li voglio rivedere». Però un giorno mi hanno raccontato che durante un'udienza Boss ha affermato di aver preso solo 1 milione da me. Si sbagliava di grosso, perché io gli ho dato più di 30 milioni per quasi 3 mesi e ha anche detto «puttana era e puttana doveva fare». Vengo. Merita proprio che io vada in aula e che lo dica in faccia. Solo che mi dispiaceva per me stessa, perché ero io la puttana in quel processo. Sono entrata con i poliziotti, non li ho guardati, ma la voce l'ho sentita. Sostenevano che non era vero niente, che mio figlio era trattato come un fratello, che ero io che volevo venire in Italia. Sì, volevo venire in Italia e lasciare 3 figlie in Albania e averne uno qua che non potevo vedere. Al processo ho ricordato le cose importanti, ma ogni tanto me ne vengono in mente delle altre e mi dico, perché non ho detto anche questo? So che quando usciranno di galera si vendicheranno, magari uccidendo mia madre, mio padre o mio fratello. È l'ultima volta che racconto la mia storia. L'ho fatto per questo libro, per aiutare le altre come me. Come posso ricordare ancora? Come faccio a parlare? Qualche volta ci penso, da sola, e allora devo subito distrarmi con qualcosa, mangiare, uscire, guardare la televisione. Mi dico, ma perché tutto questo? Un marito morto, 4 figli, il lavoro in miniera, un bambino rapito. Ho amato Albert, gli sono stata fedele, da vivo e da morto. Non ho mai litigato con i miei, non ho fatto del male. È stata molto crudele la vita con me, violentata chissà quante volte, prostituita per 3 mesi, picchiata. Come si può scordare tutto questo? Se stai tanto tempo con questa gente diventi un po' scema. Vedevo Zamira, scema, non capiva le cose. Aveva dimenticato il suo paese, il suo passato. Senza ricordi, non sapeva più dov'era il nord e dov'era il sud. Certo che prendeva le botte, è per questo che prima o poi si diventa un po' scemi. Grazie a Dio, io no. Gli appuntamenti. Sabato 16 ottobre, domenica 17 ottobre, il Dipartimento di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze e l'Associazione Il Giardino dei Ciliegi offrono un corso di aggiornamento per docenti e operatrici culturali sul tema «Il razzismo che è in noi», condotto da Mergeli Verbom dell'Università di Utrecht. Per informazioni e prenotazioni, Liliana Borghi 055 50 56 234 oppure il Giardino dei Ciliegi da lunedì a giovedì dalle 16 alle 18 allo 055 28 09 99. Dal 20 al 24 a Pisa si terrà il 21esimo convegno mondiale dell'ILGA, l'International Lesbian and Gay Association. E invece questa sera, cioè martedì 5 ottobre, dalle 19 alle 22, alla Libreria delle Donne al Tempo Ritrovato, in via De Fienaroli 31D a Roma, ci sarà l'inaugurazione della mostra di Maria Luisa Sartori, pittrice e printmaker, con festa per l'apertura della nuova sala e presentazione delle attività autunno-inverno. Per informazioni si può telefonare allo 06 58 17 7 24. Dal 13 al 20 novembre del 99 si terrà alle isole Fiji la quarta settimana di vacanza lesbica, organizzata dalle Silks Travel in un villaggio con 28 abitazioni tradizionali in legno e attività di snorkeling, tennis e equitazione. Per informazioni www.silke.com.au. Si svolgerà ad Amburgo dal 27 al 30 gennaio 2000 il congresso internazionale di lesbiche e gay sordi, Info Bound des Gerlosen, Lesben and Schwulen, Circumvet 11D20359, Amburgo. Sempre ad Amburgo sta per aprire anche una boutique esclusivamente per lesbiche. A me è andata meglio che a Lucilla. In Lindenalle 19A, il telefono è 431-08-80-996. E adesso ci riprovo con l'inglese. A New York sta per aprire una nuova libreria di donne, Blue Shocking, gestita da una lesbica al 172 Allen Street, Manhattan. Nuovi gruppi per i diritti umani degli omosessuali e delle lesbiche sono nati recentemente in Mongolia. Tavilan PO Box 4405 Ulan Bator 210644 e anche in India, che ha visto una sfilata in ricordo di Stonewall, svoltasi a Calcutta. E poi è anche possibile avere la bibliografia completa sul lesbismo. È stata fatta dall'ALI, cioè gli Archivi Lesbici Italiani, è alla sua seconda edizione, che è stata aggiornata, e il costo è di lire 5.000 e potete rivolgervi al collegamento lesbiche italiane presso il centro femminista separatista, telefonando, prenotando, per sapere che cosa acquistare, che cosa leggere, e sia su saggistica, romanzi e quant'altro. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane.